insegnerò a sparare, ti insegnerò l'onore, ti insegnerò ad ammazzare i cattivi. È sempre in fila per tre, marciate tutti con me, ricordatevi libri di storia. Noi siamo i buoni, perciò abbiamo sempre ragione, andiamo dritti verso la gloria. Devi cooperare, mettiti in fila senza protestare, e se fai il bravo ti faremo avere un posto fisso e la promozione. E poi ricordati che devi conservare l'integrità del nucleo familiare, firma il contratto, non farti pregare, se vuoi far parte delle persone serie. Hey! Hey! Alle 16.01 inizia l'ora di buco, lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Prendi la strada giusta e non sgarrare, se no poi te ne facciamo pentire. I nostri numeri, il telefono è lo 06 49 17 50, ora di buco, @ondarossa.info, la nostra mail. Salve a tutte e tutti, allora questa volta iniziamo parlando di altri soggetti che nella scuola ci sono e come, cioè in particolar modo i genitori, perché avevamo dato il comunicato di questa assemblea aperta a tutti e tutte e lanciata dai genitori della scuola Pisacane, una scuola che si trova a Torpignattara, quindi quartiere multietnico, e questa assemblea si è svolta il 6 dicembre scorso e è stata, diciamo, partecipata soprattutto ovviamente dalle persone e dai genitori abitanti in zona, ma c'erano anche altri genitori, altri tecnici dell'AIAB, c'era qualche, so che è apparso anche qualche consigliere del comune, ma non colui che era stato invitato, che è l'assessore proprio ai servizi sociali, il signor De Palo. E comunque questa assemblea appunto poi ha stilato un documento che sta girando un po' per tutte le scuole, per tutti, soprattutto attraverso il coordinamento delle scuole elementari, perché si tratta appunto del bando mense del Comune di Roma, e che dovrebbe partire appunto a gennaio 2013 fino al 2017, su cui ci sono state ben contestazioni di ogni tipo. Il bando è stato ritirato più volte proprio per errori formali ma anche sostanziali. Comunque sembra che non è questo il primo bando che poi determina molte perplessità nei genitori, tant'è che si sono mobilitati anche precedentemente. Praticamente a partire dalla giunta Lemanno le mense scolastiche hanno subito varie scadenze di qualità di servizi, aumenti di costi a carico delle famiglie, e adesso con questo nuovo bando si passerà praticamente a un peggioramento totale della qualità del cibo dei nostri ragazzi, dei nostri bimbi, e un aggravio ancora ulteriore nei confronti delle famiglie. Comunque ora a breve manderemo una corrispondenza di uno dei genitori del Laurentino 38, delle scuole del Laurentino 38, che già da tempo praticano un'autoriduzione della rete, e ci spiegherà anche i motivi e come viene articolata questa battaglia, anche perché appunto da questa assemblea sono uscite fuori varie rivendicazioni, e una di queste è per appunto un'assemblea cittadina a cui dove lanciare appunto una serie di proposte, fra cui l'autorizzazione della retta, ma oltretutto i genitori che hanno costituito un osservatorio alimentare a cui ci si può rivolgere, tutti i genitori, le scuole, gli insegnanti, insomma, stanno prendendo posizione anche molti presidi, anche molti presidenti di consiglio d'istituto, fra appunto le proposte, cioè il ritiro di questo bando, ovviamente, la proroga del vecchio e l'avvio di un percorso partecipato nelle quali i cittadini concorrono con potere decisionale proprio all'elaborazione del nuovo bando e relativo capitolato. C'è anche una cosa che appunto ora spiegheremo noi come trasmissione, cioè gli AEC, cioè questa figura che sono gli assistenti educativi che rafforzano il sostegno ai bambini con disabilità, a cui sembra in questo bando precluso anche la possibilità di mangiare insieme ai bambini nelle mense scolastiche. Questi, gli AEC sono comunali, sono gestiti, sono cooperative gestite dal comune. Allora, abbiamo adesso la corrispondenza. Pronto? Pronto? Pronto? Matteo, ci sei? Ti sento male. Mi senti male? Adesso? Pronto? Pronto? Io ti sento bene, tu? È l'importante. Scusate, problemi. Scusate, ma abbiamo perso la corrispondenza, riproviamo immediatamente. Allora, appunto, io proseguo un attimo con l'elenco delle iniziative che si vorranno mettere in campo da parte dei genitori. Appunto, dicevamo, ritiro del bando, proroga del vecchio, avvio di un percorso partecipato, possibilità per gli AEC di consumare il pasto in mensa, una raccolta di firme su una petizione da consegnare come regalo di Natale al sindaco Alemanno, una manifestazione pubblica in Campidoglio, un incontro con l'assessore De Palo e un'assemblea cittadina in data da definirsi dove lanciare appunto la campagna autoriduzione della retta. Allora, vediamo se è stata ripristinata il contatto. No. E vabbè, dopodiché io proverei a leggere anche il comunicato, è una bozza, quindi comunque verrà lanciato dai genitori. Un attimo, riproviamo. Pronto, ci senti? Pronto? Pronto? Pronto, ci senti? Pronto? Ci senti? Sì, male, ma ti sento. Matteo, allora, ciao. Allora, riesci a sentirmi? Io farò poche domande, lascio parlare te, però ci puoi un po'... Allora, intanto, tu sei un genitore? Sì, sì, sono un genitore di una famiglia numerosa del Laurentino 38, chiamiamola così. Ecco. Senti, ma i genitori del Laurentino 38, ma quante scuole ci sono? Che scuole sono al Laurentino 38, queste che si sono mobilitate? Il Laurentino 38 ha un istituto comprensivo che, anche quello con una lunga battaglia di difesa dal dimensionamento, riesce ancora a esistere, perché vogliono anche scorporarlo e lasciare un'area a rischio sociale senza un presidio scolastico, accorpandoci dei vari quartieri limitrofi, e ha due primarie e una media. Ok, quindi c'ha un'utenza, diciamo così, quanti bambini ci sono più o meno? Sì, parliamo sugli 800 bambini. Senti, ci puoi raccontare un po' com'è partita l'idea? Io ho saputo che voi siete già in autorizzazione della tariffa della mensa da qualche tempo ormai. E le motivazioni e com'è stato il percorso e perché siete arrivati a questo? Beh sì, questa battaglia parte nell'area del Laurentino 38, sposata da una parte purtroppo dei genitori, ma da una buona fetta di genitori, dal 2010, quando in luglio la giunta Alemanno rimodula le tariffe per la copertura dei costi finanziari del servizio di refezione scolastica e passa da tre fasce di ISE che avevano come una tariffa che a parte gli ISE sotto i 5.000 euro, ma gli ISE da 5.000 euro fino a una soglia dei 40.000, adesso ricordo, pagavano più o meno tutti la stessa quota, ma sostanzialmente invece con la riforma, con la prima delibera del sul servizio di refezione della Giunta Alemanno, si ha un aumento delle tariffe, chi ha 12.000 euro di ISE ha un aumento del 30% su quello che pagava precedentemente e sostanzialmente la copertura del costo pasto nella refezione scolastica passa da un contributo del 60% del comune e 40% alle famiglie a un contributo all'80% sostenuto dalle famiglie e 20% dell'amministrazione. Successivamente in dicembre, e qui inizia la nostra mobilitazione, fanno un primo taglio alla qualità, ai cibi biologici, motivandola su non poter sostenere un costo dell'aumento. Sfrucciando bene la situazione, ci siamo resi conto che le ditte appaltatrici che preparano i pasti nel comune di Roma ricevono dal comune o dalla scuola, in caso di mensa autogestito, solo il contributo pasto per i pasti giornalmente erogati. Quindi noi ci chiedevamo come mai noi paghiamo 9 mensilità quando i nostri figli, tra vacanze scolastiche e malattie, diciamo che non consumano almeno 30-35 pasti in media l'anno. Senti, scusami, perché in tasca, conti in tasca, ogni famiglia versa verso il servizio di refezione quei 40-50 euro in più l'anno. Se calcoliamo che a Roma sono gli utenti della mensa 150.000, ecco lì che vengono fuori un po' di milioni di euro. E quindi come protesta, per non giustificare questi aumenti e questi Matteo, aspetti, Matteo, scusa, sì. Un attimo, ti volevano fare una domanda. Per far capire anche a chi ci ascolta che magari non è addentro, se io ricordo, nelle scuole dove viene erogata la mensa si fa una ricognizione la mattina delle presenze, no? Non ho sentito, se puoi ripetere. Nelle scuole dove viene erogata la mensa, la mattina si fa una ricognizione dei bambini effettivamente presenti? Per poter sì, poi, ecco, se no non si capisce, cioè chi non tratta certo, bene il problema certo, non capisce. Certo, la mattina gira un foglio presenze, quindi in modo che la ditta appaltatrice prepara solo i pasti per gli alunni presenti. E invece vengono pagati una tariffa mensile. Sì, ok. E invece i genitori pagano una retta mensile. Pronto? Sì, io vi sento, pianissimo, ma vi sento. Riprendendo il discorso, i genitori invece pagano una retta mensile. Sì, assolutamente. Ok. E quindi vabbè, quindi ricapitolando, arrivate a quest'ulteriore delibera in cui c'è un aumento a cui non corrisponde, anzi c'è un taglio anche del biologico, ci sono alcuni prodotti, ho letto il coniglio sostituito con carne di maiale e altre amenità. Come prosegue quindi la vostra mobilitazione? La nostra mobilitazione chiaramente chiede, dopo l'aumento delle tariffe e successivamente l'aumento delle tariffe avviene il 30 luglio con una delibera, al 1 dicembre 2010, siamo quindi 2 anni fa, calcolate che parliamo di un bando che era già approvato perché i bandi sulla mensa durano 5 anni, quindi le ditte avevano stessi costi fino al 2012, infatti lo stiamo rinnovando adesso nel comune di Roma, arriveremo anche a capire cosa sta succedendo con il nuovo bando. La nostra protesta parte prima, loro aumentano le tariffe, tagliano la qualità e noi diciamo: perché ci prendete i nostri soldi, con quei soldi non riuscite neanche a contenere e garantirci la qualità. Questo non gli basta, successivamente con un'altra serie di delibere chiedono degli aumenti di adeguamento dell'Istat. e lo scaricano direttamente con una delibera che deve essere coperto attraverso questo che tecnicamente è chiamato il disavanzo mensa, ossia questi soldi che noi paghiamo e che loro non spendono, soprattutto nelle scuole autogestite. Successivamente, di pari passo, la giunta chiede alle scuole con la mensa in autogestione di restituire a loro quei soldi. C'è un'opposizione da parte dei dirigenti scolastici e allora pensano bene di fare una delibera in cui dicono e danno indicazione ai dirigenti scolastici di utilizzare quei soldi per la manutenzione degli edifici. Scusami Matteo, noi ci vediamo, oltre a saccheggiare dei soldi di un servizio che non riceviamo nei giorni, i nostri figli non vanno a scuola, i nostri soldi vengono utilizzati dall'ente locale per fare la manutenzione degli edifici che è di loro proprietà nel caso delle scuole primarie. Certo. Senti, una cosa solo volevo chiarire, perché le mense in autogestione, perché questo poi riguarderà il bando su questo attuale, no? Le mense in autogestione, diciamo che hanno rapporti direttamente con il dirigente scolastico e con le famiglie. Però il comune ad oggi, quindi bando attuale, emana un capitolato per cui c'è un'omogeneità comunque anche con le mense invece del comune di Roma, no? Fino ad ora era così? Sostanzialmente cambia poco tra una mensa autogestita e una mensa del comune, perché il comune decide le regole del capitolato d'appalto. La mensa autogestita offre gratuitamente la scuola un servizio al comune che è quella della gestione della cassa, dell'amministrazione. Fatto sta infatti che molte scuole chiedono al comune di riprendersi la gestione amministrativa delle mense, perché di fianco al taglio del personale ADA che si vive nelle scuole non riescono a supplire a questo servizio a titolo gratuito, tra l'altro. Sì, ne sappiamo qualcosa noi. Ma il comune nel nuovo bando mette una regola in cui non si può tornare indietro. E tra l'altro il nuovo bando, e su questo andiamo a focalizzarci adesso, chiede alle scuole di pubblicare in gazzetta ufficiale la gara di appalto a sue spese. Quindi sostanzialmente chiede a noi famiglie di sostenere anche la pubblicazione della sua gara di appalto, al quale una pubblicazione in gazzetta ufficiale costa circa 3.000 euro. Quindi ogni scuola deve spendere 3.000 euro per pubblicare questo bando. Quindi vogliono far fuori le mense in autogestione, in pratica? No, assolutamente no. Chiedono alle mense di autogestione di appropriarsi indebitamente di questi contributi delle famiglie che non gli spettano per il servizio mense, per pagare tutte le spese del nuovo bando del comune. Ma io non ho capito come voi avete praticato l'autoriduzione della retta. Noi per opporci a questa cosa abbiamo praticato un'autoriduzione pari a una mensilità della tariffa annuale, visto che sono fatti che non vengono corrisposti ai nostri figli. E quindi sostanzialmente voi saltate un mese nel pagamento della retta come autoriduzione? Sì, questo ormai dal 2010. E c'è una buona adesione da parte dei genitori? Beh, l'adesione è alta, anche perché mentre prima nel disavanzo mensa rimanevano in cassa per coprire appunto la manutenzione degli edifici che dovrebbe pagare il comune, per coprire gli aumenti del servizio mensa che la giunta Alemanno ha prospettato, rimanevano dai 10 ai 20 mila euro. Adesso le casse sono esauste e quindi le scuole chiedono di restituire il servizio, di gestirlo al comune, perché è un servizio che deve erogare il comune. Senti, intanto noi adesso arriviamo al nuovo bando in cui c'è quasi il taglio totale degli alimenti biologici e quindi della sicurezza alimentare nelle scuole, calcolate, come si diceva nell'assemblea della settimana scorsa che avete citato in trasmissione, a Roma sono scomparsi i casi di salmonella grazie a un'alimentazione sana che ci invidiava in tutto il mondo sul servizio di recezione scolastica. Quindi un grosso taglio alla qualità e un'asta nel nuovo bando che è fatta al ribasso, quindi l'erogazione dei pasti da parte della ditta che dà meno costi a discapito della qualità e della sicurezza alimentare, e tanto però le nostre tariffe sono aumentate e continueranno a aumentare, e noi per opporci e bloccare questo bando proponiamo un'autoriduzione della mensa, della tariffa mensa, fino a fine anno, fino al ritiro del bando, e l'apertura di un percorso partecipato di tutta la cittadinanza su cosa deve essere il regime alimentare dei nostri figli che mangiano a scuola tutti i giorni per i prossimi 5 anni. Senti, non c'era però solo il problema della riduzione o sparizione del biologico e quindi poi di menù che comunque non soddisfano assolutamente quanto invece nel bando che scadrà a dicembre c'era. C'è anche il problema dei chilometri, ovvero dell'allargamento a 300 chilometri della provenienza, no? Il che mi sembra che all'assemblea del 6 dicembre veniva ricondotto al fatto che in questo modo il comune fa entrare delle grosse ditte, delle grosse aziende, evidentemente amiche, fra virgolette. Sì, sostanzialmente loro giusto, cioè, l'assessore De Palo, e voglio ricordare che appunto a me, io ho costruito questa immagine così, come dire, comico-tragica del personaggio che in sandalo e con l'aria da chirichetto parla di famiglia e di servizi alla famiglia ogni giorno, in realtà con questo bando, oltre a come dire, prelevare ingiustamente dei soldi nelle tasche delle famiglie di Roma, che sono i cittadini e lavoratori più tassati in Italia, che hanno le addizionali comunali e regionali più alte d'Italia. Oggi leggevo che l'aliquota IMU è più alta d'Italia, quindi pure chi per fortuna si ritrova una prima casa e sta tassato di tasse per sostenere dei servizi sociali che non esistono, questo signore giustifica il taglio al biologico con l'introduzione del chilometro zero. Però il parametro della sua filiera corta, chilometro zero, ha un raggio di 300 chilometri, ciò vuol dire che posso prelevare il formaggio pecorino sulla costa dell'Abruzzo, e tutto ciò invece a discapito della filiera corta o magari anche delle produzioni delle aziende pubbliche romane. Non dimentichiamo che Roma ha Castel di Guido, un'azienda agricola in fase di chiusura e di licenziamenti e di messa in mobilità di decine e centinaia di lavoratori. Sì, infatti so che ci sono, cioè, ben 4 aree il Comune di Roma affidato dalla Regione, migliaia e migliaia di ettari, quindi potrebbero essere dedicati alla coltivazione biologica e rifornire tutte le mense di Roma praticamente, e invece appunto sono in perdita e i lavoratori sappiamo che sono in vertenza. Poi senti, ma volevo chiederti un'altra cosa poi che niente, non mi sono scordata. Scusate, niente. Su questo nuovo bando, ecco, io volevo dire a chi ci ascolta che poi uno dei i 3 prodotti che verranno praticamente di nuovo non più biologici saranno pasta, pomodoro e olio, voglio dire, cioè elementi fondanti della dieta mediterranea, insomma, poi, no? E sì, esatto. Poi alimenti che sono presenti in tutte le preparazioni, esatto, quasi, che stanno dappertutto. Senti, Matteo, so che vai di corsa anche tu, noi non so se vuoi aggiungere qualcosa, se puoi, se no... Sì, volevo aggiungere solo che un comunicato dei genitori del Laurentino 38 a cui manderemo, cioè cercheremo di condividere sia giovedì nell'assemblea del coordinamento delle scuole elementari di Roma per allargare questa forma di lotta a tutta la cittadinanza, perché noi pensiamo che sia l'unico modo per fermare questo bando che deciderà le sorti dell'alimentazione dei nostri figli nelle scuole per i prossimi 5 anni. Pertanto invito tutti e tutte a partecipare presso l'Istituto Comprensivo Cervi a Casaletto, trovate sul sito coseelementariroma.it tutte le indicazioni per l'appuntamento. Partecipiamo tutti, questo è un bando che veramente inciderà sulla salute e la sicurezza alimentare dei nostri figli, le buste sono state già aperte, le ditte hanno già presentato le loro offerte al ribasso, si parla di patti a 4 euro, cioè nel senso appunto per accontentare chissà come chi è qualcuno tra la spartizione delle mense scolastiche di Roma e quindi le varie cooperative legate a un colore o all'altro, noi diciamo blocchiamogli e soprattutto questa minestra non la paghiamo. Bene. Lo leggeremo il comunicato se, sicuramente se abbiamo tempo, e comunque magari lo mettiamo sul nostro sito dell'ora di buco. E ti ringraziamo Matteo. Allora, comunque ci terremo informati e approfondiremo poi ulteriormente il discorso nelle prossime trasmissioni, anche seguiremo un po' le assemblee che verranno fatte. Grazie a voi, a tutti e a tutti. Grazie, ciao. Ciao, ciao, ciao. Bisognava però precisare una cosa, c'erano un po' difficoltà a sentirsi, quindi non era il caso di parlarne in quel momento, ma la storia delle mense autogestite nelle scuole romane parte da molto lontano, parte da 25 anni fa almeno, quando la giunta democristiana al comune, mi pare col sindaco Giubilo, toglie all'ente comunale di consumo che gestiva le mense questa gestione, affidandola a cooperative per la maggior parte fra l'altro di provenienza diciamo cattolica, quelle che poi si presero anche la gestione della casa dello studente, la cascina, una per tutte. E oltre al fatto che il servizio peggiora in maniera evidentissima da subito, sia dal punto di vista dell'igiene che della qualità, e si crea anche una situazione che peraltro già esisteva precedentemente, ma si aggrava, che le mense, il servizio di mense e quindi di tempo pieno, comincia sempre con minimo 2 settimane di ritardo, se non di più, costringendo per questo i genitori di questi bambini iscritti al tempo pieno a fare i salti mortali per 2, 3, a volte 4 settimane per riuscire a sistemare appunto i figli, che a quel punto venivano messi fuori da scuola a mezzogiorno e mezza perché non c'era il servizio mensa. E di fronte a questo, di fronte a questo problema, di fronte alla questione della qualità anche molto peggiore di quella erogata fino a quel momento, molte scuole, molti genitori nelle scuole si organizzano dove è possibile, dove riescono anche a avere la collaborazione ovviamente dei direttori, così si chiamavano all'epoca, e fanno degli appalti, sempre entro ovviamente con certi criteri, degli appalti ogni scuola con delle delle varie ditte, quindi assicurando soprattutto, oltre alla qualità che veniva quindi controllata direttamente da questa commissione genitori, si assicurano l'inizio contemporaneo o quasi con l'inizio delle lezioni, delle mense, insomma. Quindi è un po', viene un po' da lì questa autogestione delle mense, che sia continuata, crediamo. Io poi personalmente, insomma, l'ho un po' persa di vista questa cosa, avendo i figli poi cresciuti, e però insomma, se le mense autogestite ancora ci sono, evidentemente ci sono dei motivi perché questo sia un, ci si può rifare a un capitolato che come ci diceva prima il genitore al telefono, è un capitolato che ovviamente deve essere rispettato da tutti, ma che per quanto riguarda il contratto, insomma il capitolato ancora, il bando ancora in vigore, è comunque un capitolato che rispecchia le esigenze alimentari dei bambini e anche certi criteri economici. Allora, adesso invece abbiamo una lavoratrice delle mense, nel senso che lavora in una di queste società, che non del nuovo bando ovviamente, ma del bando in scadenza. E vorremmo sentire un po' da lei qual è la situazione del lavoro all'interno delle scuole e fare un po' il punto. Pronto? Pronto? Ci sei? Mi senti? Sì, io vi sento, mi sentite? Sì, senti, allora, ti volevo chiedere, intanto, vabbè, tu lavori per una cooperativa? È una cooperativa? No. No, no, è una società. È una società. Allora, sì. Com'è? Io ho letto che le società che ora, e quindi il personale che sta lavorando sì, nelle mense scolastiche, ha questo vincolo contrattuale per cui la nuova società che subentra dovrà assumere questo personale. Sì. È così? Sì, sì, è così. E quante siete come lavoratrici con questo tipo di contratto? Ma in tutto, per tutta l'azienda saremo più di 6.000 dipendenti. 6.000 cioè, siamo tantissimi. E, mi racconti un po', ecco, che non lo so se come funziona, ecco, magari noi che non frequentiamo la mensa, insomma, come è articolato il vostro lavoro, cosa prevede, beh, allora, in quante siete, quanti bambini? Beh, intanto ci sono scuole che hanno 700 posti, 600 posti, alcune 250, quindi il personale cambia a seconda di quanto è grande la scuola e quanti bambini ci sono. Quindi in una scuola magari possono esserci 13 dipendenti, in un'altra che è più piccola 8 persone a lavorare dentro, e ci sono vari turni. Poi c'è chi fa magari le merende la mattina, le varie cuoca, aiuto cuoca, chi si occupa degli allergici, e poi noi, se c'è chi sta a 4 ore o chi ha 5, quindi aiuta in cucina, e insomma il personale in maggioranza sono le persone assunte a 3 ore. E senti, e quindi la somministrazione dei pasti per i bambini, poi sì, si tiene conto anche di allergie, menù particolari, giusto? Certo, certo, devono essere consegnati questi certificati e poi da lì insomma si fa la dieta a parte per chi è ciriaco, faccio un esempio, insomma. Quindi si tiene conto della dieta e da lì si parte con la variazione del menù per loro, insomma. Ma gli alimenti attualmente sono tutti biologici? Attualmente sì. Quindi anche olio, sì, pomodoro. Poi e pasta? Olio, pomodoro sì e pasta. Ok. Per ora. Poi quello che accadrà in seguito, questo non lo so, con le nuove cose, insomma, so che cosa accadrà. Certamente il biologico ci deve essere. Questa è una cosa, insomma, fuori discussione. Poi ovviamente ci sono delle scelte che non sempre accettiamo, ecco. Senti, ma mi raccontavi che ultimamente con questi bandi in scadenza, oppure sì, non è solo per questo motivo, sta succedendo qualcosa nelle mense, nella distribuzione dei pasti, nella sostituzione dei lavoratori in caso di malattia o di assenza? Beh, in realtà, guarda, piuttosto che magari prendere del personale e fargli magari un contratto a più ore, come tutte le aziende usufruiscono del SGIS che poi magari si tengono fino a giugno, fino a un determinato, insomma, periodo, invece che sfruttare il personale stesso all'interno delle mense, che secondo me sarebbe meglio, a diritto più chi ci sta forse che... Però queste sono varie, è più aperto come discorso, è molto più largo, piuttosto che prendere una stagista e sfruttarla 3 mesi e poi magari dirgli arrivederci, insomma. Una stagista quindi a titolo gratuito, ovviamente? Stagista non è a titolo gratuito, perché magari viene presa dal comune, viene assunta dal comune che gli dà una pagata dal comune 3 mesi, e poi decide l'azienda se tenerla o mandarla via. Magari quindi poi... la ditta ci risparmia perché è il comune che paga, certo, queste persone invece di... le paga, però io dove cos'è che non vedo giusto? Non vedo giusto il fatto di non poter usufruire delle persone che magari sono lì e che da anni chiedono un'ora in più, piuttosto che prendere una stagista che magari poi sai che avrà una scadenza. Non tutte, magari c'è una su 100 alla quale verrà fatto un contratto, ma una su 100, allora anche piuttosto che fare... Perché sì? Si parla di personale, lo ripetiamo, che lavora 3 ore al giorno, quello fisso, insomma... 4 ore, quattro ore. La stagista sta, però loro ovviamente se la tengono a 3 ore, perché certamente non assumono a 4 ore, no, non ma le danno a noi. Tu prima dicevi appunto che cioè il personale chiede di lavorare magari un'ora in più proprio perché lavora 3 ore al giorno, quindi ovviamente ha una, sì, retribuzione bassa, suppongo. Beh sì, più bassa, però magari c'è gente che conosce l'impianto, è lì da anni, magari si fa un mazzo tanto, scusami il termine, quindi secondo me, a mio avviso, spetterebbe più a una persona che c'è dentro, magari attaccare anziché alle 11, alle 10 ti dai un'ora in più e usufruisci del tuo personale piuttosto che di una ditta esterna, insomma questo che dico, no? Senti, ma... Pronto? Pronto? Sì, sì. Ma quante siete, per esempio, mettiamo il caso, un'ipotesi, con 600 bambini, quante operatrici servono? 13? Beh, allora, faccio un esempio, magari su un impianto dove ci sono 600 pasti, 5, 6, 7... Vabbè, 13. più o meno, ecco. Ma 13. Voi siete, insomma, garantite nella sostituzione di malattia in caso di assenza, ovviamente? Se no, è questa la grande, il grande, no, problema. Che non ci dovrebbe essere la sostituzione, cioè un'ora di straordinario non ci facciamo niente, perché a noi servono le braccia, non le ore. Cioè le ore, un'ora di straordinario al mese non cambia sulla busta paga. E di quella giornata però lavorare per 3 persone, insomma, sì. Ma quindi quando potete essere anche sotto organico, diciamo così? Ma accade spessissimo di essere sotto organico, ma questo è un problema di queste varie aziende, un po' di tutti. Essere sotto organico ormai è diventato lo slogan della distribuzione alimentare, credo, per le mense scolastiche. E questo quando poi si tratta di erogare, insomma, di preparare da mangiare per 600 bambini, può creare anche dei problemi, non solo a voi, sì, ma certo, proprio al risultato, poi, diciamo. Ma certo, sulla tempistica, e quindi è tutta una catena, perché magari scendono e ti dicono ma non è pronto, ma noi poi c'è il secondo turno, quindi tu devi spazzare, devi riapparecchiare, eccetera, eccetera, e questo va ad incidere su noi e sul resto del... è tutta una catena, questo lavoro è una catena, quindi se si toglie un anellino di questa catena... è tutto un disagio. Poi creare il disagio, anche se chiami il sindacato, non serve a nulla, perché in quella giornata magari poi il giorno dopo c'è chi lo deve fare per te. Allora comunque che succede? Che le ragazze del giorno prima lo devono fare comunque il giorno dopo, quindi sei sempre tu che lavori, insomma. Senti, ma voi avete rapporti con la scuola, ovviamente, con il personale docente, il personale ATA, i genitori? Beh, i genitori, secondo me, a mio avviso, se ne dovrebbero occupare un pochino di più, dovrebbero essere più al di dentro di questa cosa, dovrebbero informarsi di più, anche perché, insomma, ci sono parecchi genitori che hanno bambini molto piccoli, ma anche grandi, perché magari il genitore se ne occupa di più quando è piccolo, ma se ne dovrebbe occupare sia alle medie, perché ci sono scuole qua che hanno figli dove, insomma, hanno bambini che vanno alle medie e usufruiscono della mensa scolastica, ci sono le elementari che comunque sono abbastanza grandi e lì c'è carenza di genitori che visionino un po' la questione. E secondo me è il genitore, quando parla del genitore credo che ha più voce in capitolo di qualsiasi altra persona, e ce n'è poco, o c'è proprio interesse, o anche se è molto difficile entrare a far parte della commissione mensa, secondo me c'è una carenza anche da parte genitoriale. Senti, un'ultima domanda ti volevo... No. Sì? Pronto? Mi senti? Sì. Ma voi subite, voi avete, siete soggetti a controlli periodici o a sorpresa da parte del comune, suppongo, no? Sì, sì, sì. Molti? Sì, noi spessissimo siamo sotto, insomma, tenuti, ecco, adesso da poco c'è magari l'ICQ, ci sono vari controlli, varie tipologie di controlli, insomma. Parti dei nomi, che ti posso dire, ci sono anche le ASL che vengono, c'è un po' di tutto, anche per quanto riguarda appunto le dietiste del Comune di Roma, le nutrizioniste vengono spesso anche a controllare la parte allergica, cioè per gli allergici, no? Va bene, senti, non so se avete altre domande, a me al momento non me ne viene alcuna, anche se, insomma, perché stiamo, per noi è anche un argomento nuovo, quindi ci stiamo un pochino informando, ma... Senti, io ti ringrazio, ti ringraziamo e... No, io che ringrazio voi e spero che, insomma, siccome è un momento importante, ma per tutti, tutte le tipologie di lavoro, spero che, insomma, la gente comincia ad arrabbiarsi un po' di più per ottenere un risultato migliore, insomma. Comunque Radio Onda Rossa è qua, la voce, lo spazio per la voce della lavoratrice e dei lavoratori che portano avanti tutte le lotte c'è, e quindi, insomma, al di là dell'ora di buco che parla specificamente della scuola, tutta la radio, sì. Insomma. Certo. Io vi ringrazio della possibilità e vi auguro una buona giornata. Grazie, ciao. Ciao, ciao. Credi è così se ti rapporterai alla problematica. Gli spazi troverai, analizza il ruolo e la globalità, gratificazioni e conflittualità, mangia insieme a noi, sai non c'è un granché, siedi dove vuoi, un minestrone c'è, il formaggio e la pepe non ce n'è, prendi il vino da un'altra poi insieme a noi. È chiaro che l'emotività nell'istituzione dinamica non ha ottica e dialettica dell'autonomia, insomma stiamo insieme ma ognuno a casa sua mangia insieme a noi. Sai, non c'è un granché, siedi dove vuoi, un minestrone c'è, il formaggio è là, pepe non ce n'è, prendi il vino, dai, e bevi un altro po' insieme a noi. Su, resta qui una tregua in più. Paranoia e recupero, non socializzi più. A livello umano una risposta c'è. Son problemi tuoi, che cosa vuoi da me? Mangia insieme a noi. Sai, non c'è un granché, siedi dove vuoi, un minestrone c'è, il formaggio è là, pepe non ce n'è, prendi il vino, mangia insieme a noi. Siedi dove vuoi, sai, non c'è un granché, prendi il vino, dai, e vattene se vuoi. Insomma, allora ci rendiamo conto che l'argomento è molto nuovo e per chi non ci sta dentro, magari pure da diverso tempo, è difficile orientarsi. Quello che ci diceva la lavoratrice della mensa è pure interessante, perché lei dal suo punto di vista dice che i genitori non se ne occupano poi molto ed invece è importante occuparsene, perché non erogano queste mense solo il pasto di mezzogiorno, che già basterebbe, erogano pure la merendina e così via. Quindi comunque quello che mangiano i bambini credo che ai genitori debba stare a cuore. La sostanza è che il bando che sta scadendo era un bando fatto dalla precedente giunta, di cui noi assolutamente non siamo sostenitori o sostenitrici, non lo eravamo, ma che comunque era evidentemente il risultato anche di una mobilitazione, aveva portato a situazioni, cioè a un menù fondamentalmente buono, a prescindere dai cibi biologici o meno, su cui si potrebbe aprire, cioè sulla certezza che lo siano, poi tutto un altro discorso, ma comunque come varietà, come tipo di alimentazione, sicuramente molto studiata, molto, insomma, molto accurata. E c'era però il problema, come ci ha detto il genitore, di questi pasti pagati a forfè praticamente, per cui l'assenza dei bambini nelle scuole soggetti a malattie, influenze eccetera è abbastanza alta, per cui poi alla fine si pagava un servizio che non veniva erogato e per quello c'è stata l'autoriduzione. Il nuovo bando, oltre ad alzare ancora le tariffe intervenendo sull'ISE, che poi è questo criterio che ormai conosciamo tutti perché viene usato per qualsiasi cosa, cioè sul reddito della famiglia, che viene poi abbattuto o meno con vari coefficienti, e su questo ISE poi vengono determinate appunto le quote che vengono pagate alla mensa e che sono però salite. La cosa importante è che comunque anche il menù viene cambiato, adesso ovviamente non siamo entrati nei particolari, con l'abbattimento fortissimo degli alimenti biologici, con un aggravio burocratico pesante sulle mense autogestite, e ci parlava dell'obbligo di pubblicare il bando delle scuole che decidono appunto di autogestire la mensa sulla Gazzetta Ufficiale, e con fra l'altro un altro aspetto che non abbiamo toccato prima, che poi questi pasti, se si va a vedere il costo unitario per pasto, il 50% viene coperto dal trasporto, da questioni burocratiche e da tutta la logistica, cioè lo stoccaggio, l'immagazzinamento, eccetera. E tanto per capirci, in questo nuovo bando, veramente qui non si coglie, non si coglie proprio il motivo, è stato introdotto l'obbligo per le ditte di certificare giornalmente, quindi ogni giorno, con la fotocopia del libretto di circolazione, tutti i mezzi di trasporto che vengono impiegati nella filiera dal produttore fino alla mensa, quindi fino alla destinazione finale. Voi capite che questo significa una produzione di fotocopie infinite che ovviamente ha un costo enorme. Questo tanto per dire come viene gestita. Il succo però poi alla fine che ci interessa qual è? Che con l'allargamento dal chilometro zero, quello che era, quindi quantomeno regionale se non proprio provinciale a Roma, si arriva a estendere fino a 300 chilometri la possibilità di provenienza delle merci per, e questo delle derrate, insomma, che servono per la mensa, e questo evidentemente per permettere, si è già visto quali potrebbero essere, a determinate ditte fra virgolette amiche di entrare all'interno di questo, che è un grosso affare, perché comunque è per più di 400 milioni di euro che poi riguardano insomma l'intero comune di Roma. Mi colpiva anche il fatto dell'indicizzazione che il genitore ha accennato, quindi dell'aumento delle rette, perché c'è un'indicizzazione del 2,5%, ci fa specie che queste, l'indicizzazione su base di Istat ovviamente, tutto un calcolo di aumento dei prezzi eccetera, ci fa specie perché gli stipendi e i salari sono completamente bloccati, ma non solo quelli nostri della scuola, ma insomma più o meno, basta leggersi insomma il patto di produttività che spiega molto bene come funzionerà o come dovrebbe funzionare d'ora in poi, però poi appunto si va ad aumentare su servizi essenziali che sono quelli appunto per esempio delle mense nelle scuole. E siamo in diretta dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è l'ora di buco, abbiamo dedicato questa trasmissione alle mense scolastiche, sostanzialmente della scuola dell'obbligo, quindi della primaria e della secondaria inferiore. Prima di chiudere vorremmo tornare su un argomento che abbiamo già aperto in due puntate precedenti, e cioè il concorso per il personale docente che è stato indetto dal ministro Profumo. Ricordiamo brevemente che si tratta di un concorso farsa sostanzialmente, 160 milioni di euro vengono spesi per allestire un concorso che vedrà almeno 160 mila euro, erano quelli previsti inizialmente, poi non sappiamo bene quanto possa lievitare questa spesa, visto che gli iscritti e le iscritte sono 320 mila, i posti, stiamo parlando di un concorso che va dalla scuola materna alle secondarie superiori, sono meno di 12.000, 11.000 e rotti, e più volte abbiamo avuto in trasmissione i compagni del coordinamento precari scuola che ci hanno spiegato il perché bisogna opporsi a questo concorso. Innanzitutto c'è un problema che riguarda proprio i lavoratori e le lavoratrici insegnanti precari, cioè il fatto che si tratta di persone che sono già abilitate, a cui è stata chiesta obbligatoriamente la frequenza di una scuola abilitante di 2 anni, la SIS, che poi è stata chiusa dalla ministra Gelmini, hanno fatto un esame di stato, hanno un'abilitazione, persone sono in graduatorie che vengono chiamate a esaurimento, ma che non si esauriscono mai sostanzialmente, e nonostante quindi, se il ministro voleva assumere bastava che partisse dall'alto e assumesse, invece no, ha rindetto un nuovo concorso, uno sperpero di denaro e anche l'ennesima umiliazione per lavoratori e lavoratrici che vengono sottoposte peraltro a una prova preselettiva che avrà luogo, se niente accade, il 17 e il 18 dicembre prossimi, quindi lunedì e martedì della prossima settimana, una prova preselettiva che niente ha a che vedere con le materie che poi queste persone andranno a insegnare. E quindi noi siamo qui, insomma, a questi microfoni per ovviamente solidarizzare con la lotta che non è solo degli insegnanti precari, ma è di tutta la scuola, perché ovviamente la modalità con cui si recluta gli insegnanti è anche, come dire, significativo per chi sono poi queste persone, cosa devono andare a insegnare, e come devono andare a insegnare. Se queste persone per poter passare un test devono subire sostanzialmente un addestramento e impararsi a memoria una modalità per mettere crocette, evidentemente poi dagli insegnanti si vuole che ai ragazzi e alle ragazze questo insegnino, cioè che addestrino a loro volta automi, sostanzialmente persone senza un pensiero critico, senza una capacità di ragionare in maniera autonoma. Questo giovedì, il 13 dicembre alle ore 15, davanti al Ministero dell'Istruzione e della Ricerca in Viale Trastevere, ci sarà una manifestazione per chiedere di nuovo che si blocchi questo concorso e per chiedere quello di cui nella scuola c'è veramente bisogno, cioè il rifinanziamento della scuola pubblica, perché di questo c'è bisogno. La Gelmini, Tremonti e Brunetta, tutta quella banda di ladri, hanno tolto 8 miliardi e mezzo l'anno di finanziamento alla scuola, ricordo che in tutto erano 40 miliardi, quindi un quinto se so fare i calcoli, e che adesso i tecnici al governo ne tagliano un altro miliardo. Quindi invece di concorsi che non sono concorsoni ma concorsini, perché sostanzialmente lasceranno inalterata la situazione delle scuole, la scuola ha bisogno di soldi e di strutture e di considerazione e di partecipazione. Quindi l'appuntamento è per tutti e tutte, il 13 alle 15 davanti al Ministero della Pubblica Istruzione, questo giovedì appunto. E invitiamo anche i docenti non precari, i docenti di ruolo, diciamo i fortunati, a non collaborare a questo concorso, visto che sono stati chiamati a vigilare, essere presenti, anche il personale ATA, perché queste prove si svolgeranno davanti ai computer nelle sale informatica di molte scuole d'Italia, che si stanno attrezzando, alcune chiuderanno anche in quei giorni, 17 e 18. Noi invitiamo i docenti di ruolo a non collaborare a questa truffa. Eppure il personale ATA è invitato a non collaborare. Io comunque, collegandomi alla scuola, vorrei fare un invito a partecipare venerdì 14 dicembre alle ore 18 presso la sede del Comitato di Quartiere Alberone a via Appia Nuova 357, metro Furio Camillo, a un incontro assembleare ma anche autoformativo che parte dal recente accordo sulla produttività, sindacati, padronato, governo, e va ad analizzare l'attuale ridefinizione dei rapporti giuridici del lavoro e lo stato dei rapporti di forza nei luoghi di lavoro. E c'è una parte anche in questa accordo di produttività che riguarda la scuola, e infatti verrà in qualche modo prestata molta attenzione proprio all'aspetto ideologico di questo rapporto capitale-lavoro. Perché? Perché prevede sia una funzione culturale delle rappresentanze sindacali, e sia perché richiede interventi sul sistema dell'istruzione, riducendo il ruolo della formazione didattica a vantaggio della diffusione sin da piccoli della cultura d'impresa. E quindi è un invito anche alla diffusione dell'auto-organizzazione nei luoghi di lavoro, scuole comprese. Con questo l'ora di buco tra lavoratrici e lavoratori della scuola parlano di scuola vi saluta e vi dà appuntamento come ogni settimana alle 16 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Nel frattempo potete andare a vedere il nostro blog che è ondarossa.noblogs.org, sempre più ricco di documenti, di materiali e anche di quelli di cui abbiamo parlato durante questa trasmissione. Ciao. Cara maestra, un giorno mi insegnavi che a questo mondo noi siamo tutti uguali, ma quando entrava in classe il direttore tu ci facevi alzare tutti in piedi, e quando entrava in classe il bidello ci permettevi di restar seduti. Mio buon curato,